Oggi attraverseremo un territorio periferico abbastanza vasto. Mi sono permessa una digressione rispetto all'attuale divisione amministrativa dei quartieri e vedremo infatti insieme il quartiere Porto, Reno e Costa. E vi lascio l'ascolto di alcuni estratti dalle interviste peripatetiche che ho realizzato nei mesi estivi insieme ad Anna Albertarelli, Adriana Torregrossa, Fabio Fiandrini, Francesca Burzacchini e Laura Ulisse. A tra un po'. Che poi Santa Viola come quartiere fa parte di Reno. Ma Berretta Rossa, io non lo so se è centrale, perché in realtà c'è via Santa Viola che in realtà dà nome al quartiere, ma è assolutamente anonima via Santa Viola, una stradina piccolina come questa. Però no, questa Berretta Rossa si chiama così perché ai primi del Novecento questa strada era una strada di campagna e la gente che veniva in questo quartiere, in questa zona dal centro, come punto di riferimento, per dire proprio che veniva qui, diceva: dove vai? Da Berretta Rossa. Berretta Rossa era un calzolaio che portava sempre un berretto rosso che era proprio qui all'angolo. Come riferimento avevano questo calzolaio, perché ancora non c'erano strade qui, qui era tutta campagna. Questo centro commerciale è nuovo, sarà qui da 7-8 anni. È un po' fastidiosa, è che davanti all'S Lunga c'è un bel prato, ma il prato è stato fatto con le onde in modo tale che i bambini non possano giocare a pallone, perché ovviamente se giochi a palla hai bisogno del... Invece lo fanno apposta, li fanno così per evitare questo e lasciare, diciamo, l'aiuola intatta. Pare che in via Berretta Rossa, che era campagnissima, no? Era proprio foresta, si sia fermato Giovanni dalle Bande Nere. Il suo fantasma ha trovato lì rifugio. Poi hanno costruito questa casa ed è rimasta sta leggenda che lì c'è il fantasma di Giovanni dalle Bande Nere, sempre voce di quartiere. E mi hanno rassicurato quel signore che abita proprio di fronte a casa. Mi dice: no, non ti preoccupare, cioè, ma se vedi la luce accesa di Giovanni. È rimasta un po' questa idea della campagna. Lì c'è una stanza cordiale, anche i miei vicini di casa sono disponibili anche a fare le due chiacchiere. Lì c'è tutta una zona bruttissima invece, adesso te la faccio vedere. Questa è tutta nuova, con condomini nuovi che però stanno cadendo a pezzi. Più della metà sono disabitati. Davanti continuano a costruire. Quelle sono case popolari invece. Quelle là sembrano più un po' di carcere, però sono case popolari. Ecco uno degli scorci molto pittoreschi, guarda. Si chiama Canale del Chiù, con tanto di ponticello Little Venice, è un po' in secca, è un angolo di Venezia. La cosa pittoresca sono le rane, e le rane che arrivano addirittura a svegliarci, diciamo che sono perfettamente intonate col rumore del traffico di via Saffi. Questa via del Chiù è una via assurda, è una specie di bestia nera di tutti i postini, perché non capiscono dove inizia e dove finisce, essendo una via che a un certo punto diventa una specie di sentiero. Dall'incrocio di via Malvasia diventa praticamente un sentiero ciclabile che corre comunque sull'argine di questo fatidico canale del Chiù e diventa una strada di campagna. Vedi qua in un attimo la via del Chiù è trafficata e estremamente caotica, improvvisamente diventa aperta campagna perché costeggia quelli che sono i prati di Caprara, se non sbaglio. Il parco immenso e in qualche modo lasciato a se stesso, perché è completamente abbandonato, è rimasto in questa condizione da almeno una trentina d'anni, credo. Comunque questo muro è un'altra specie di luogo strano, perché in realtà circonda una enorme area di cui non sappiamo nulla. Penso che sia una struttura legata agli scali ferroviari. È un'area immensa, vista da Google Maps, esce fuori una immensa area di scalo ferroviario che non penso che sia ancora in funzione. Stiamo entrando in via Malvasia, che è una via piena di tigli che conduce a quello che era l'antica area del macello, che si chiama adesso Bestial Market, che nel frattempo è diventata uno studentato, ha ospitato uno dei primi centri sociali della città, che era il livello 57, dopo che fu cacciato dall'isola del Cantiere. È una costruzione strana, un po' neogotica, che ha subito una ristrutturazione negli anni 80, come dicevamo prima, e che è tra l'altro la sede del quartiere Porto. Diventato, oltre che uno studentato, era una famosa mensa dove si mangiava la pizza all'epoca, e tra l'altro ospitò questo nei primi anni della sua ristrutturazione la Biennale Giovani Artisti del Mediterraneo, e fu ribattezzato per l'occasione Bestial Market, proprio perché appunto c'era una strana metafora tra gli artisti e gli animali da macello, forse. Zona barca più o meno. Ex quartiere barca, perché negli anni 70 questa era proprio la zona barca. Adesso diciamo che la zona barca si è un po' spostata più verso il treno, diciamo, come, quindi questo più o meno è diventato un po' il quartiere Reno, che è abbastanza ampio. Questa è la via della barca, qui ci sono questi palazzoni che non mi piacciono esteticamente neanche un po'. Ecco, diciamo che a parte nei momenti in cui ci sono i bambini che escono da scuola, come persone che vedi in giro per la strada, più o meno questo è, anche alla mattina non è che cambi molto. Qui ci sono queste belle casette, per esempio, a parte Villa Serena, che lì direi che non è che ci siano degli spazi aggregativi. Però non posso neanche definirla una zona dormitorio. Questa è la scuola elementare. Se arrivi nell'orario di ricreazione, butti l'occhio. Sono delle belle coreografie. A me piace allontanarmi dalla strada principale, che non mi piace il traffico. Gli scorci che mi piacciono di più sono questi che mi fanno intravedere un po' la zona di San Luca. Adesso stiamo andando verso i giardini, i giardinetti. E qui stiamo proprio in un'altra dimensione, adesso un quartiere che negli anni 70 era un po' paragonato al Pilastro, no? Cioè, quindi un quartiere a rischio di devianza sociale. Negli ultimi 15 anni si è molto rivalutata come zona, no? Diciamo che per il momento non è ancora un quartiere con una grossissima integrazione razziale, cioè non siamo alla bolognina, per intenderci. Qui, per esempio, se stai tutto il giorno, extracomunitari non ne vedi tanto, proprio anche come famiglie. Cioè, da quel punto di vista è proprio un quartiere bolognese, bolognese proprio doc. È, diciamo, quelli che magari un tempo erano gli operai, no? Bolognesi, e è un po' rimasto così. Sempre zona barca, quel discorso che dicevo molto più in fondo, dove c'è il treno, ecco, lì invece c'è già più presenza di extracomunitari. Sì. Giro delle case e stiamo ritornando indietro. Qui c'è un altro, vedi, ce n'è proprio tanto di verde, perché lì alla nostra sinistra, volendo andando di là, c'è ancora dell'altro verde. Qui ci sono questi palazzoni, però tutti i palazzi che ci sono qua intorno hanno il giardino del palazzo, quindi per cui i bambini possono, ci sono i giochi, insomma sono stati proprio predisposti per far sì che il verde sia abbastanza presente. Poi, per esempio, però da questo punto in poi, davanti a noi c'è l'asse attrezzato, al di là dell'asse attrezzato cambia tutto. Qui siamo sull'asse attrezzato. È un flusso molto... Ecco, una cosa di cui mi sono accorta in questi ultimi 6 anni è che la gente va sempre più veloce in macchina, cambiate proprio i ritmi, ed è sempre più schizzata. Cioè, al di là dell'inquinamento dello smog, a me per esempio sta dando molto fastidio l'inquinamento acustico. Al di là delle macchine, insomma, anche questo perenne suono, musica ovunque. No? Cioè, nel senso, tu vai al supermercato e c'è la musica, e vai nel negozio e c'è la musica. Certo. Siamo alla barca, è un quartiere dormitorio fondamentalmente, nel senso che è un quartiere popolare dove la gente solitamente di giorno va in centro, va a lavorare. Adesso andremo al parco, che è il punto di ritrovo più animato del quartiere. Questo posto è pieno di verde ed è anche pieno di scuole d'asili, quindi nei parchetti ci sono molti bambini che giocano, anche le maestre li portano. Io questo parco per esempio lo uso moltissimo, soprattutto d'estate. Adesso sto venendo qui tutti i giorni, faccio qua il mio training, le mie prove, ed è la mia salvezza, perché tra l'altro... Dicevo che, visto che in questo quartiere è anche pieno di extracomunitari, il parco è bellissimo perché è animato soprattutto la domenica, ci mangiano, quindi allestiscono tavolini, picnic vari. E in realtà le persone con cui ho fatto amicizia di più, ad esempio nel mio palazzo, sono pakistani e un signore e una signora albanesi. E siamo al treno. Il treno è... la parte clou del quartiere. Allora, per essere precisi, prima eravamo in una parte di quartiere che si chiama Reno. Questo è invece proprio il cuore del quartiere Barca, e questo edificio tutto lungo si chiama Treno. Un chilometro di case. Oggi c'è la partita, e qua è un disastro quando c'è la partita. Sì, sono tantissimi. Qui proprio fanno, magari lasciano le macchine qui, parcheggiano proprio dietro dove ci sono gli stradoni, quelli più grandi, e poi vanno a piedi lungo la pista ciclabile per raggiungere lo stadio. Allora, siamo vicinissima alla rotonda di Andrea Costa, davanti alla COP. E quando mi sono trasferita qua, cioè, la prima impressione è stata proprio quella di stare in una di vivere un'altra Bologna. Cioè, perché comunque c'è molto più verde e, non lo so, è una situazione molto più rilassata. Niente, qua siamo all'inizio della pista ciclabile che costeggia a destra la Certosa e a sinistra c'è il Fiumiciattolo. Se tu vieni qua alle 7 di sera d'estate in primavera, cioè, praticamente sembra che ci sia la maratona, perché ci sono tutti che corrono. Comunque, guarda, in questo quartiere, che appunto è molto... cioè, è bello perché c'è della natura, secondo me è, c'è una vita piuttosto rallentata, tranquilla. Quando c'è la partita... cioè, comunque lo stadio sovrasta su tutto, La domenica c'è l'elicottero che continuamente gira, per cui se hai le finestre aperte senti continuamente l'elicottero e ti sembra che stia atterrando sul tetto di casa tua. E poi niente, cioè, qualsiasi azione tu fai in cucina è accompagnata da boati di tifosi. Poi veramente qua, cioè, in questo punto abbiamo lo stadio da una parte, San Luca subito vicino e la Certosa davanti. E adesso ci addentriamo proprio dentro l'anello, dove poi sotto l'anello ci sono, diciamo, diverse palestre, c'è il pugilato. Proprio l'anello di cemento, è strano anche qua. Cioè, secondo me questo quartiere raccoglie proprio delle immagini completamente diverse. Bene, siamo in diretta da Elia Media, dalla stazione di Elia Media che è in Piazza Puntoni a Bologna. Oggi fortunatamente c'è un po' di sole, quindi siamo tornati al centro della piazza rispetto alla giornata di ieri un po' grigia invece dentro i portici. Bene, Fedra, vuoi dire qualcosa così a chiusura di questo giro di interviste che avevi registrato? Beh, la cosa che mi viene da dire è che, di nuovo, ringraziarti perché tu sei stato il primo conduttore di appuntamenti estetici, no, appuntamenti periferici bagnato. e quindi fortunato. Esatto, e quindi vediamo di continuare come ieri con i nostri ospiti e invito anche i presenti, se volessero entrare in merito, non essere timidi e intervenire nel dialogo che si propone di essere un brainstorming inclusivo. Esatto, che facciano un gesto visibile, che io passo subito il microfono. Allora, quindi facciamo finta che piova anche oggi. Gli ospiti sono tre, partiamo con Anna Albertarelli di Goatto Project, era anche all'interno dell'intervista che abbiamo sentito, si occupa di danza, arte, installazioni e appunto, diciamo, tutto declinato in chiave anche sociale, quindi lavoro con bambini, scuole, con persone diversamente abili, eccetera. Poi abbiamo Ilenia Gamberini della Pillola, che conosciamo bene perché è partner integrante del progetto Elie Media, anzi la struttura entro la quale ci troviamo è prodotta dalla Pillola, e Simone Gheduzzi di Diverse Righe Studio, uno studio di architetti che altrettanto si occupano comunque di produrre eventi partecipativi all'interno di Bologna. Allora vorrei fare un primo giro in cui sinteticamente descrivete meglio, insomma, il tipo di attività che svolgete e magari anche le zone dove avete già dove siete già intervenuti all'interno della città. Partiamo da Anna. Allora, sì, io sono coreografa, danzatrice e mi occupo di ricerca. Diciamo che in questo momento la mia riflessione sul mio modo di agire e fare arte è questo, principalmente perché in questo momento non arrivano sufficientemente sovvenzioni per poter portare avanti dei progetti consistenti, e quindi continuo la mia ricerca e mi occupo di lavoro col sociale. Da quando è nato mio figlio, che ormai ha 6 anni, ho cominciato ad avvicinarmi un po' al discorso sull'infanzia e quindi stiamo cercando di anche qui di trovare delle visioni giuste per poter relazionarci con il mondo dell'infanzia in maniera che sia un rapporto costruttivo di scambio con i bambini. Non sto pensando a degli spettacoli, ma proprio dei cicli di lavori dove i bambini suggeriscono delle cose, delle suggestioni molto, molto concrete. E per cui in questo momento mi occupo più che altro di didattica, quindi di pedagogia, insegno in scuole di teatro e basta, questo più o meno è il quadro del lavoro che svolgo, esatto, in questo momento. Bene, passiamo la parola a Ilenia, chiedo scusa. Sì, grazie per avermi invitato. Io sono Ilenia Gamberini e rappresento appunto l'associazione culturale La Pillola. È difficile raccontare in poche parole tutto quello che fa La Pillola, perché diciamo che abbiamo un'attività abbastanza vasta che va appunto dall'organizzazione di un gruppo d'acquisto a una sezione che si occupa di architettura e design. Appunto, come tu dicevi prima, abbiamo partecipato concretamente al progetto Elie Media realizzando il box, il chiosco dentro al quale si svolgono tutti i programmi culturali. Un co-working, gestiamo un co-working in via Castiglione e organizziamo eventi sostenibili. Sembrano attività tutte un po' disparate, discostate l'una dalle altre, ma in realtà abbiamo come filo conduttore l'approccio sostenibile alla vita, che quindi va dal cibo, dalla fare proprio praticamente la spesa, a lavorare in un ambiente condiviso, dove le persone possano condividere appunto uno spazio e quindi limitare gli sprechi e ottimizzare le risorse, e poi appunto organizzare eventi sostenibili che in questi anni sono stati diversi, hanno toccato diverse tematiche, ma comunque hanno avuto tutti come filo conduttore l'utilizzo del medium artistico per parlare di tematiche sostenibili in un modo o in un altro, o di riuso o di magari tutela di determinati beni architettonici, appunto attraverso la valorizzazione e l'utilizzo di materiale recuperato, eccetera. Quindi ecco, noi abbiamo questo ambito d'azione abbastanza vario che però ci diverte, ultimamente ci fa anche, ci dà anche da mangiare, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Beh, quindi più di così. Cosa vuoi di più? Tra l'altro avete una sede molto bella, che è la sede, diciamo, una sede recente, da più o meno da un anno, vero? Sì, da un anno che ci siamo trasferiti in via Castiglione, siamo molto contenti appunto perché prima eravamo un po' più periferici, per rimanere a tema, eravamo in Bolognina, ci siamo trasferiti in centro perché comunque è nel nostro DNA spostarci dopo qualche anno e andare a colonizzare, tra virgolette, un altro spazio della città. E quindi sì, adesso stiamo assaggiando il pieno centro storico, che ha caratteristiche ovviamente completamente diverse rispetto al quartiere Bolognina, però estremamente stimolante, non credevamo. Bene, sentiamo adesso Simone. Ciao, allora mi chiamo Simone Ghiduffi, oggi rappresento diverse righe studio. Il nostro lavoro è un lavoro da architetti. La nostra ricerca, diciamo, che parte dall'opportunità di poterci confrontare con il mondo lavorativo, quindi dal punto di vista proprio dell'architettura abbiamo realizzato diverse residenze collettive. Queste ci hanno permesso, diciamo, di fare un ragionamento sulle relazioni e quindi su progettare edifici che in qualche modo inneschino le relazioni tra le persone invece che non permetterle, come è accaduto negli ultimi 20 anni nella politica, diciamo, di pianificazione urbana un po' in tutta Italia, dove, diciamo, gli interventi che sono stati realizzati hanno enfatizzato un po' la dimensione individuale invece che quella collettiva. Il nostro contesto è nato diciamo nella seconda fascia urbana, quindi nasciamo nei paesi oltre la periferia bolognese e mano a mano, diciamo, ci siamo avvicinati sempre di più alla città fino a realizzare in questo momento stiamo realizzando, diciamo, il primo co-housing di iniziativa pubblica nel comune di Bologna, che verrà realizzato in via del Porto e che, diciamo, è per noi, diciamo, il primo lavoro che viene fatto anche con una parte pubblica, mentre prima tutti gli altri interventi erano interventi che venivano realizzati con privati. E questo, diciamo, è stato il nostro percorso ed è stato un percorso che ha in qualche modo dovuto scardinare alcuni linguaggi consolidati un po' nella cultura architettonica di queste fasce, seconde fasce urbane. E mano a mano, diciamo, lavoro dopo lavoro, tutte le conquiste che venivano fatte venivano poi prese per assodate nei lavori successivi fino a che, diciamo, siamo arrivati adesso a poter realizzare questo tipo di intervento. Lo studio si occupa quindi non solo, diciamo, di architettura in senso accademico, quindi nell'arte del costruire, ma ci occupiamo anche di parti più legate al mondo dell'arte, facciamo diverse installazioni, ne abbiamo realizzate diverse grazie alla pillola che ci ha chiamato per 2 volte all'Ecole del Rusco e come diciamo attitudine una volta all'anno dedichiamo del nostro tempo per fare dei progetti di tipo sociale, quindi invece che diciamo che parte delle energie dello studio una volta all'anno vengono dedicate per realizzare dei progetti che hanno, diciamo, un carattere fortemente sociale, che quindi si interessino, diciamo, al benessere del cittadino, insomma, dell'abitante. Posso intervenire? Parlavi della vostra attitudine a creare edifici, se non sbaglio, che anziché separare inneschino relazioni. Sì. Mi puoi dare qualche esempio concreto di quali sono gli strumenti o le strategie che adottate? Allora, è un processo, diciamo che se tu pensi a come sono state realizzate tutte le periferie, ma non solo a Bologna, un po' in tutta l'Italia, quindi, diciamo, tutte le zone d'espansione delle città, e ti soffermi a guardare come sono stati realizzati sia i piani urbanistici che gli edifici, come se tu vedi una matrice che viene calata nelle realtà e non viene fatto invece un progetto adeguato a quella realtà contestuale. Sono spesso edifici che vengono fatti e progetti che vengono fatti più per la macchina che per la persona, ad esempio. C'è un progetto, i progetti normalmente prevedono che pur di far star comodo le persone tu debba arrivare ad esempio all'interno della casa con la tua macchina, e sono concepiti secondo le logiche un po' del tutto vendibile, cioè qualsiasi centimetro quadrato anche di verde deve essere venduto ed è una speculazione materiale, non è una speculazione concettuale, quindi sono tutti interventi che in qualche modo aboliscono la dimensione collettiva a scapito, no? Enfatizzando invece quella individuale. Accorgersi invece che la nostra società è composta non più da un solo modello familiare, quello tipico tradizionale, ma stiamo vivendo un'epoca in cui ci sono differenti nuclei abitativi, differenti modi di vivere, differenti opportunità, ci sono ragazze madri, ci sono anziani, ci sono coppie di persone, ci sono professionisti over 30 che per necessità economiche sono obbligati a abitare come un perenne studente, ci sono famiglie di persone che provengono da culture che non sono quella italiana. E quindi pensare a una concezione dello spazio che tenga conto di questa eterogeneità, questo diciamo è una premessa del nostro progettare. Concretamente l'intervento Casa Logica, che è un intervento che abbiamo realizzato sempre nella seconda fascia urbana, sempre ad Altedo, dove io e Ilenia siamo nati, materialmente è stato concepito come se tu ti immagini, immaginati tre ferrovie sovrapposte, quindi due binari che rappresentano la parte portante dell'edificio. Era un intervento di tipo privato questo, quindi non era un intervento di tipo pubblico, all'interno del quale durante la progettazione le persone che vogliono acquisire un appartamento all'interno di questo intervento hanno la possibilità di aggiungere, sottrarre o innalzare spazi. Ecco, quindi se si presenta una persona che ha necessità di uno spazio minimo, gli viene consegnato uno spazio minimo, se si avvicina una persona che ha quattro figli ha la possibilità di avere lo spazio necessario per il suo tipo di famiglia. Questo naturalmente è un esempio, poi di volta in volta, progetto per progetto, in base alle premesse, ai contesti, alle committenze si possono fare ragionamenti diversi, ma la premessa insomma deve essere quella. Ilenia deve aggiungere una cosa. No, più che altro era una domanda per te, Simo, perché visto che vi state progettando appunto questa struttura co-housing, noi gestendo un co-working, insomma il concetto co-housing, co-working sono fratelli, avevo un po' di curiosità pratiche, perché ho seguito diversi convegni sul co-housing e ci sono molte problematiche a monte da risolvere per fare in modo poi che le persone, cioè il vicinato elettivo, si chiama così, le persone, no, appunto, che si scelgono per andare a vivere insieme in un unico abitato. Mi domandavo, voi avete fatto questo processo a monte? Perché il fatto che si progetti un co-housing a Bologna è una cosa per me meravigliosa, sono felice che poi lo facciate voi. Avevo già sentito al SAIE che stavate incominciando a parlare di questa cosa, poi purtroppo sono dovuta andare via, però ecco, mi incuriosisce molto perché lo trovo europeo, contemporaneo, sensato, cioè ci sono molti aggettivi per un progetto del genere su Bologna finalmente, però ecco, mi domandavo se il vicinato elettivo si era scelto a monte e poi aveva dato a voi la commissione, oppure se era un progetto nato da voi insieme alle istituzioni e poi aperto, ecco, a gruppi che avessero bisogno di una abitazione. Allora, in questo caso il progetto non c'è un vicino. Allora, la gestione del bando non è una cosa naturalmente che dobbiamo fare noi come studio. Noi ci è stato chiesto di progettare un intervento di co-housing. La cosa, secondo me, che è abbastanza innovativa rispetto anche a tutti gli altri co-housing, anche del nord Europa, che verrà fatta qua a Bologna e che secondo me è stata veramente lungimirante dal punto di vista dell'amministrazione, è il fatto che prevede il concetto di temporalità. Mentre normalmente quando una persona si avvicina a fare una scelta di tipo abitativo, fa una scelta che ha la logica del per sempre, quindi del tempo indeterminato, in questo caso invece è stato studiato su un concetto di temporalità, cioè non c'è l'utente, non c'è stata una selezione ancora perché verrà affidato a bando in affitto, ma c'è un target d'età. Ossia persone tra i 25 e i 35 anni, quindi ricercatori, giovani professionisti, persone che avranno la possibilità quindi di avvicinarsi a fare una seconda scelta nella loro vita, quindi abiteranno quello spazio per un tempo che dipenderà dal bando, sarà di 3, 4, 5 anni, non lo so, però quindi nasce all'interno del co-housing il concetto di temporalità. Questa secondo me è la parte innovativa rispetto ai co-housing che normalmente vengono realizzati anche in Nord Europa. È fantastico, ma quando si parte? Quando ci sarà il bando per... C'è già una data? Il bando, ti ripeto, il bando non è cosa non lo che noi gestiamo, stiamo facendo voi. Il progetto e lo stiamo progettando. Grande, bellissimo progetto, bravi. Si sente adesso. Voglia di farvi una domanda. Parlando anche... C'è un problema con il filo. Okay, tengo bene il microfono, sì. Scusate. Ritornando un attimo un po' nello specifico del territorio che stiamo trattando e vedendo come fosse pieno di verde, di spazi anche pubblici e questa, ricordando un po' l'intervento di Francesca, particolarmente poi anche di Anna, nell'intervista che abbiamo sentito prima, vorrei spostarvi l'attenzione sull'uso dei parchi come luoghi di spazi prove. E quale potrebbe essere, volevo chiedervi, la ricaduta sociale di questo tipo di pratiche, ovvero di portare la propria sala prove, stiamo parlando di un ambito performativo inteso come contemporaneo e quindi della ricerca, nei parchi pubblici, laddove magari si affacciano le case private, e anche questa può essere uno spazio sociale, produrre uno scarto rispetto alla qualità della nostra zona abitativa. E poi vabbè, con Anna ci eravamo un po' divertite a immaginare, vuoi raccontarci qualcosa anche qui? È spento. Ok. Credo che sia una situazione importante, anche perché come abbiamo già sottolineato nell'intervista, l'arte contemporanea molto spesso è distaccata dal sociale, no? Il pubblico che ne fruisce è sempre un pubblico magari acculturato. Difficilmente io, per esempio, posso immaginare che le persone che vivono nel percorso che abbiamo fatto si affaccerebbero a un mio spettacolo o spettacoli di ricerca particolari, no? Mentre invece usufruire degli spazi affinché le persone, gli anziani, buttino l'occhio durante la passeggiata mattutina oppure mentre porti il bambino a fare la passeggiata e vedano appunto delle visualizzazioni dei corpi diverse da quelle che vengono concepite di solito, no? Anche attraverso la fruizione della televisione, no? Cioè per esempio io mi occupo di danza e quindi mi viene a pensare che questa categoria di persone vive la danza e la fruisce in maniera molto televisiva, no? Mediatica, mentre invece non sanno che il panorama della danza è molto più ampio e complesso anche, no? In tutti i suoi generi, in tutte le sue forme. Magari lo intuiscono, però per cui secondo me potrebbe essere, e lo è di sicuro perché io lo faccio come lo fa Francesca, però magari è una pratica che non è effettivamente eseguita da tutti quanti. Sì, però forse mi ricordo che durante questi attraversamenti ci si immaginava proprio a quale potrebbero essere state le ricadute reciproche tra chi fruiva. L'idea era un po' quella di portare a domicilio poi l'arte in questi quartieri e a trasformare quindi le facciate dei palazzoni. Penso anche al virgolone del pilastro, anche in quel caso si era un po' fantasticato. Poi a rilanciare, questo era con Diego, a rilanciare su come di anno in anno magari l'interesse potesse crescere fino a promuovere la lotteria per l'appartamento che dirige la performance del giardino. E insomma, quale potrebbe essere la ricaduta sociale? Proprio appunto quella di correlarci un po' di più a un universo di forme possibili. Sentiamo cosa dice Simone. Ma forse la cosa che sicuramente potrebbe avere una ricaduta in questo tipo approccio alla partecipazione è sicuramente lo scenario di una visione un po' più collettiva, quindi immaginandoci, come dicevamo prima, di avere immaginandoci la realtà che stiamo vivendo dei quartieri multirazziali con differenti persone che stanno cercando di integrarsi all'interno della nostra società, forse il poter portare delle manifestazioni di questo tipo all'interno dei quartieri significa produrre una partecipazione, quindi una solidarietà, una conoscenza, e quindi, come se le persone si conoscono, naturalmente certe barriere vengono buttate giù, è una sorta di memoria collettiva in fondo, no? Visto che hai citato il rapporto appunto con persone che vengono da altre situazioni, da altri paesi, vorrei sapere anche appunto da Ilenia e Anna che diciamo come si sono configurate anche con queste realtà multirazziali, multietniche, se nel loro lavoro, se nelle loro attività c'è un riscontro anche di questo tipo di situazioni qui a Bologna. Allora, per quanto mi riguarda, in questo momento no. Io mi sono più che altro occupata di disabilità fisica e rispetto all'interculturalità, però mi piacerebbe molto, sì. Ilenia? Spento. Adesso funziona. Dunque, noi collaboriamo, cerchiamo di collaborare appena ne abbiamo l'occasione con persone ovviamente non italiane, perché ci arricchisce per tutti i motivi ovvi. In questo momento stiamo collaborando con una ragazza argentina, fa la designer e quindi è qua per uno splendido progetto della regione, è qui nella nostra sede per un mese e stiamo cercando di imparare il più possibile da lei, visto che appunto il filone design nell'America Latina sta spingendo molto, stiamo cercando appunto di capire qual è la sua formazione, stiamo lavorando a un progetto, per ora non dico nulla perché è abbastanza... siamo proprio alla fase prototipo, però ecco, è estremamente stimolante, interessante. Ecco, rilancio ancora su un altro tema che è stato toccato prima, cioè il rapporto con le istituzioni e con i privati. Anna, non fare quella faccia. Di quello che pensi. No. O quello che sai. No, io non so niente. No, allora, la mia situazione in questo momento è che ho congelato l'associazione proprio perché non riceviamo sufficienti finanziamenti per poter portare avanti dei progetti consistenti, quindi io sono costretta comunque a lavorare per conto terzi, quindi ad andare in altre associazioni, molto probabilmente anche perché forse io non sono particolarmente brava a gestire l'aspetto più organizzativo, no? Che sento che sono carente in questo. Quindi può darsi che questo sia anche uno dei motivi, mi faccio anche carico, no? delle mie responsabilità. E quindi, cioè, non so. Ma diciamo, al di là anche dei finanziamenti, c'è una sponda, come dire, consistente? Ma guarda, allora, il discorso è questo. Io parlo sempre dell'ambito della danza. Sono anni che all'interno di Bologna si sta cercando di smuovere un po' questa matassa di questa danza che non viene recepita, che non viene seguita. Per fortuna danza urbana, insomma, ha fatto molto e si sta muovendo affinché comunque si testano delle relazioni fra il comune di Bologna e i comuni limitrofi. Però sono tessiture molto lunghe, no? Cominciano adesso un po' a smuoversi, per cui credo che, insomma, riusciremo a vedere qualcosa di concreto forse fra un anno e mezzo, due, tre, non lo so. C'è la voglia di smuovere un po' le acque, perché fino adesso la voglia di avere un luogo della danza, un luogo deputato che riconosca che all'interno di questa città ci siano dei coreografi, degli artisti che lavorano sul territorio, ancora non è stata riconosciuta dalle persone, non sto parlando solo di me. Quindi questa più o meno è la situazione. Bene, abbiamo un'ascoltatrice esterna che ci è venuta a trovare che ha una domanda da fare, un'ascoltatrice di cui conosco perfettamente il nome e cognome, Chiara ma Pergola. Non, ecco, stavo per dire, ma non dirlo, è una domanda dal pubblico. Sì. No, mi è venuta in mente questa cosa che ho sentito l'altro giorno per radio mentre parlavi di questo discorso dei finanziamenti, no? C'era Ronchi che era intervistato a proposito delle politiche culturali e anche di come finanziarle. E ha detto una cosa che mi ha fatto veramente molto pensare, perché a un certo punto insomma ha detto ci sono, Bologna comunque è una città molto ricca anche di associazioni storiche che hanno lavorato e quindi bisogna concentrare i finanziamenti, le risorse nel momento critico, lo sappiamo tutti, cioè, ovviamente immagino che se ci fossero molti finanziamenti il discorso potrebbe anche essere diverso, quindi c'è sicuramente una situazione politica insomma generale in cui questo tipo di discorso si inserisce, però a un certo punto lui ha detto bisogna concentrare le risorse su queste realtà che hanno dimostrato di essere in grado di sviluppare un'economia attorno e molti si renderanno anche conto che forse questa non è la loro vocazione. E questa cosa qui a me, diciamo, anche se comprendo la situazione all'interno della quale matura questo tipo di discorso, cioè mi ha veramente un po' anche preoccupato, perché comunque la cultura è un diritto, cioè non so bene neanche dove collocare il confine tra gli spettatori, gli operatori, cioè ovviamente c'è un confine, anche ci sono dei linguaggi, ci sono dei saperi, però è un confine mobile, cioè deve essere un confine mobile, penso. Io ho riflettuto su questa cosa e mi mette in crisi, perché mi condiziona al punto che io come artista devo essere manager, no? Cioè devo diventare manager di me stessa, devo diventare promotrice, ma manager proprio come giustamente forse intende, no? Ronchi, però non capisco fino a che punto un artista deve per forza necessariamente diventare anche un manager. Un artista è un artista e non è detto che per forza deve essere un manager, non lo so, è un po' una riflessione che sto facendo. Oppure si deve affiancare delle persone che sono in grado di fare questo tipo di intervento, ma non sempre capita purtroppo, no? Quindi non so. Cioè io dopo non voglio poi togliere, però riflettevo anche sul fatto che cioè questa cosa, al di là del discorso se è giusto o meno che ci siano delle realtà che funzionano da traino, no, nell'economico, e che in questo momento probabilmente è anche necessaria, questa cosa lo posso capire. Però impostare un discorso su una base di esclusione, ci sono alcuni che capiranno che non è la loro vocazione, cioè al di là del fatto che un artista poi sia un manager o non sia un manager, magari non siamo neanche tutti uguali rispetto a questo, però cioè, mi domando perché porre questa barriera, cioè se il discorso artistico si arricchisce di contributi che sono imprevedibili. Sì. Io volevo ringraziare per aver sollevato l'argomento. E fra l'altro anch'io, nel momento in cui si è cominciato a parlare di istituzioni, volevo fare un intervento a mia volta. Questa voce non l'avevo sentita. Io invece avevo sentito una voce rispetto al fatto che, rispetto alla politica dei finanziamenti a pioggia, che sono stati per questa città diciamo il dato significativo, caratteristico, grazie, ecco, sì, caratteristico del finanziamento, la proposta che veniva lanciata dalla voce istituzionale era quella di organizzare tra le realtà che ricevono questi piccoli finanziamenti una rete, in modo da poter avere un finanziamento maggiore per un progetto collettivo. E anche da questo, non ve lo nascondo, nasce un po' l'idea di portare a dialogare persone che conosco attive nel territorio. Che cos'è che ci frena nel riuscire a realizzare una rete sinergica? Chi vuole rispondere? Partiamo da Simone. Simone, non... ma o se no, intanto che ci si pensa, se avete dalle fasi, possiamo introdurre un graditissimo ospite a sorpresa che ci sta ospitando in questo momento. E in infatti... realtà abbiamo la presidente del quartiere San Vitale, Milena Naldi, che bravo, ringraziamo di essere qui presente e che vorremmo subito introdurre all'interno di questa piccola tavola rotonda, chiedendole che rapporti ha, istituzionali naturalmente, con realtà di questo tipo di cui stiamo parlando, quindi con gruppi che si occupano di arte e di sociale contemporaneamente, che cercano di coniugare questi due aspetti. Forse posso arditamente cercare di rispondere alla domanda che ha messo in imbarazzo gli ospiti. Ci provo. No, il mio rapporto con ogni tipo di associazione o di produttore culturale, beh, è quotidiano. Io ho la fortuna anche di fare un mestiere, insomma, che un pochino aiuta in questo. Mi occupo di arte, quindi insomma ho una visione, spero, abbastanza completa. Quindi è quotidiano, ma soprattutto riguarda un quartiere come il mio, che ha il cuore, diciamo, universitario come territorio, dove siamo oggi in questa bellissima piazza Puntoni, è la vocazione primaria. Quindi io le incontro quotidianamente e che cosa posso offrire a loro? Non posso offrire denari, così come probabilmente... qui c'è la realtà quotidiana, insomma, di un'interfaccia multiculturale e multi... No, c'è uno che sta al telefono e sta urlando in arabo, credo, molto arrabbiato però con un altro che non è qui. E il tema... Siamo in piazza, no? La piazza a mille volti, anche a mille orari, sai, in un luogo, per esempio, della città, alle 8 è una cosa, a mezzogiorno è un'altra, alle 8 un'altra, magari a luna di notte un'altra, quindi c'è anche una visione del territorio ad ore e ad usi. No, provo a rispondere. Non avendo denari, quello che possiamo fare come istituzione, in questo caso come istituzione anche quartiere, è fare quella rete sinergica sugli spazi. Noi avremo solo degli spazi comuni, anche per fare produzione culturale o per ospitare. Parlavate prima di usare i giardini come set di prove, perché no? Cioè, qualunque cosa, basta mettere a disposizione, non avendo denari, luoghi dove si possa fare produzione culturale e metterli in rete, in questo caso, con un concetto di condivisione. Non potremo mai più appaltare a una sola associazione un luogo, perché è solo e talmente tanto prezioso che dovrà essere condiviso con degli altri. Quindi voi, insomma, la Pillola è una delle associazioni che ha fatto il co-working, abbiamo qua gli architetti di diverse righe che fanno il co-housing. Bene, dovremmo fare il co-artist, cioè dovremmo cercare di mettere insieme gli spazi per poterli mettere a disposizione. Questo... Co-appalting. No. Coarti, ma non so adesso coarti, le parole però seguono dei pensieri e dei concetti. Nella versione di non avere più soldi, ma avere solo spazi, puoi mettere a disposizione servizi. Allora, non è che non ce la faremo, dobbiamo farcela, perché magari servirà qualcosa da condividere anche come strumentazione, in modo tale che nessuno possa avere tutte le strumentazioni, ma possono magari essere usate. Ecco, quindi anche per l'arte, anche per la produzione artistica o per qualunque evento culturale, questo concetto è un concetto che ci può permettere di guardare in avanti, ecco, di non invece rinchiuderci nella difficile situazione economica che ti porterebbe alla paralisi. Quindi questo si può fare e si può progettare insieme con le associazioni, con gli spazi e con le intelligenze che riusciamo a mettere in cantiere. Grazie di questo intervento. Prego. Molto puntuale. Fedra, hai qualcosa da aggiungere? Sì, nell'ascoltare ho il microfono di quello che va massaggiato. Massaggiare il microfono No, è spento questo. È spento. Allora, beh, dopo le sexy shock dell'altra puntata mi sento un pochino, scusatemi, non era il momento adatto. Comunque la questione dei servizi mi ha fatto tornare alla mente un'altra urgenza che fa un po' da ponte tra questo programma radiofonico e quello che un pochino ho riconosciuto essere un territorio comune tra le istanze della ricerca contemporanea, perché laddove all'inizio della puntata si ricordava di come la declinazione del contemporaneo possa sembrare avulsa o comunque chiusa in se stessa rispetto ad un pubblico più maggioritario, in realtà vediamo che tutte le declinazioni della ricerca vanno ad investire interesse proprio in una ricaduta sociale in direzione di questo pubblico. Quindi in realtà, così configurato, ritornando anche un attimo a Simone che ci parlava della promozione di una memoria collettiva, in questo modo in realtà l'arte risulterebbe essere una sorta di servizio bifronte, perché da un lato aiuta chi la fa a entrare in rete e quindi specificare strumenti di comunicazione umana, e dall'altra parte dà un esempio e cerca di tendere ai propri simili, perché l'idea è che quella che, come diceva giustamente Anna e come diceva anche la nostra ospite misteriosa, no? Il nostro ospite dal pubblico, l'intervento di prima, scusatemi, non sono così abile nell'esprimermi così in radio, la cultura è un bene universale, forse è proprio quella che ci può un po' definire come esseri umani, non saprei, cioè adesso l'ho detta grossa. Iniziamo a volare un po' alto qui, spento. Ancora spento. Allora, ci proviamo, ci ancora. Siamo. Sì, no, solo per, poi vi lascio il microfono, ma secondo me la cultura ci potrà permettere di sopravvivere in maniera anche felice a una situazione molto difficile. Ti puoi aggrappare lì, allora lì puoi riconnettere, come dire, le ragioni anche di vita, che poi sono quelle più ambiziose, sono quelle che, se anche con pochi denari o con gravi situazioni finanziarie, ma se non ti agganci, diciamo, a quello che ti può permettere, di facendo cultura, di avere una visione diversa, sia letteraria, musicale, insomma, quelle che sono i palliativi dell'animo, credo che ci imbarbariremo troppo per affrontare anche ciò che è un po' inaffrontabile come il nostro mondo contemporaneo. Quindi iniziamo a gonfiare il salvagente, che il peggio deve ancora arrivare. E allora, in attesa dei tempi migliori, lancio questa proposta, ma non è che magari promuovendo una pratica, una prassi di attività sporadiche da organizzare in giro, proprio a costo zero, per il gusto di farlo, per il gusto di fare insieme qualcosa e avere come interlocutori gli abitanti, un pubblico potenziale che sono gli abitanti dei quartieri periferici, laddove che è un pubblico molto vitale e nel quale in effetti ci sono anche i caratteri della nuova cultura occidentale, sempre più frammista di altrove anche nel. E allora chiedo a voi, cioè, così proprio perché ormai siamo quasi in chiusura, lanciate degli input, che cosa si potrebbe fare di veloce, pratico, che fosse, non lo so, ma oppure insomma che costasse poco, ma proprio anche così, cose che avete visto e che vi piacerebbe o vi piacerebbe vedere in questi termini nei quartieri periferici, proprio tipo, cioè, pochi maledetti e subito. Simone, incominciamo da Simone. Visto che la chiedi così velocemente, io farei proporrei delle piste d'atterraggio per UFO, utilizzare gli spazi di risulta, quelli che ci sono ad esempio nel manifesto per il terzo paesaggio di Clementro, fare una ricerca su tutti i quartieri e, visto che stiamo parlando di multirazialità, di eterogeneità, di barriere, di conoscenza, di demolizioni di diversi recinti, sia fisici che culturali, prepariamoci ad accogliere una persona da un altro pianeta, saremo sicuramente più vicini a quelli accanto, insomma. E questa qui ricorda la suggestione che ci ha regalato Karin Andersen due puntate fa, quindi c'è già un possibile link, attenzione. Bella, mi piace molto. Ilenia. Dopo la suggestione che ci ha regalato Simone è difficile dire qualsiasi altra cosa, perché obiettivamente no, ci tenevo solamente a fare una piccola parentesi polemica, così, giusto perché sennò siamo stati tutti troppo buoni e troppo carini. Rispetto a quello che dicevamo prima, quindi del rapporto con le istituzioni, che appunto non ci sono soldi, e questo lo sappiamo, ce l'hanno detto e lo sappiamo benissimo, insomma, conosciamo la realtà e ci scontriamo quotidianamente. Quello che mi piacerebbe è che è palese che la situazione è questa e che le istituzioni ci possono venire incontro, come già in alcuni casi stanno facendo, dandoci degli spazi, che sono la prima cosa, ovviamente il luogo d'aggregazione è la prima cosa per incominciare a creare concretamente qualcosa di artistico, di creativo. Sarebbe bello vedere anche un po' di unione di intenti fra le varie associazioni, fra i vari operatori culturali. C'è sempre questa tendenza che io continuo a riscontrare da quando cerco di fare cultura in questa città, la tendenza classica della mia proprietà privata, questo è il mio orticello, tu stai lì, io cerco di delle due fregare i due soldi che ci sono a te, piuttosto che metterci insieme e collaborare. Questo è uno dei grandi difetti che io continuo a riscontrare e continuo ormai a essere sempre più stridente, perché in una situazione del genere la parola rete è quella che rincorre continuamente come problem solving, però sarebbe veramente ora di incominciare ad attuarla nel concreto e con delle azioni pratiche quotidiane, cioè operatori culturali, uniamoci, non a caso ovviamente in base alla propria attinenza, proprio a determinati progetti eccetera, però l'unione in questo caso farebbe veramente la forza, e in realtà che sono, diciamo, non in ambito culturale, ma come il co-working, come il co-housing, come anche i gruppi d'acquisto, sono delle pratiche concrete, reali, che servono a cercare di risolvere un problema oppure, diciamo, viverlo in maniera diversa. Perché non appunto applicarlo all'arte, ma collaborando sul serio come operatori culturali? Ecco, volevo fare una precisazione di questo tipo. Anna? Un'idea? Dei picnic creativi, non lo so. Mi viene in mente una cosa così, e poi dopo, sì, anche perché dopo l'intervento di Simone effettivamente mi hai bloccato. Hai tagliato le gambe a tutti. Esatto, si possono unire anche questi. Fai dei picnic per gli UFO, insomma. Ecco. Sì. C'è l'istituzione che ha una proposta da lanciare. Un'istituzione con una vocazione per gli UFO, insomma. Sì. Faccio un esempio, questa è una cosa concreta. Pensate, per i luoghi e per gli spazi, alle scuole. Le scuole, d'estate, la sera. Cioè, sono spazi enormi. Magari, no, sarebbe interessante conquistarli, un muro abbastanza difficile di chiusura e di proprietà, ma quello è un patrimonio che noi abbiamo e che francamente rimane inutilizzato per tempi molto lunghi, ed è un patrimonio troppo, troppo bello, troppo già costruito, magari da condividere, ed è un'idea da UFO, ma che piano piano gli UFO arriveranno anche in questa città. Bene, Fedra, vuoi chiudere questa conversazione? Abbiamo ancora qualche minuto? Per i saluti, credo. Per i saluti, no? Che non riesco a vedere bene l'orologio, chiedo scusa. Ma io non ti sento da là, tu se ti senti? Io mi sento nella cuffia. Pronto? Mi sentite? Sì, vedo che tutti annuiscono. Adesso facciamo il giro dei saluti, direi, perché insomma siete stati già troppo gentili a rimanere qui con noi, però insomma, infatti, no, è stato fai gli onori di casa. Una felice coincidenza che la presidente del quartiere sia apparsa magicamente, quindi che anzi ha ravvivato molto la conversazione. Esatto, siamo sempre in ambito UFO, mi sembra. Mi sarebbe piaciuto fare anche un piccolo giro invece sui privati, cioè i privati in questo caso che ruolo hanno? Hanno un ruolo soprattutto? Forse non facciamo in tempo, volete dire qualcosa di fulmineo? No, vedo no, sarebbe un argomento che apre troppe porte. Esatto, meriterebbe una puntata in sé. Allora, ringraziamo Anna Albertarelli, Goatto Project, Simone Gheduzzi, Diverse Righe Studio e Ilenia Gamberini della Pillola, nonché la presidente Milena Naldi. Abbiamo anche l'ascoltatrice che prima ho detto noi ma non lo ripetiamo, ringraziamo l'ascoltatrice e tutti quelli che ci hanno ascoltato in media. Streaming. Hanno il tono attivato, molti media channel. Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20 in piazza Puntoni. www.aeliamedia.org